del deserto e oltre colline policrome, ocra, viola, opaco, grigio, marrone, rossiccio. In cima ad una valle azzurra e riarsa i viaggiatori incontrano un'oasi artificiale, un giardino segreto, un castello saraceno fortificato. Come ospiti del vecchio della montagna Hassan Safa, i viaggiatori salgono al castello percorrendo scalini tagliati nella roccia. Qui il giorno della resurrezione è giunto e trascorso. Quelli che vi amano vivono al di fuori del tempo profano che tengono a bada con veleno e pugnali. Dietro merli e feritoi e professori e fedain vegliano in strette celle monolitiche, mappe, stellari, astrolabi, storte alambicchi, pile di libri aperti in una lama di luce mattutina, una scimitarra sfoderata. Ognuno di costoro è sultano di una rivelazione rovesciata, monarca di abrogazione e apostasia. In una sala centrale decorata di luci e arazzi arabescate, si appoggiano sui cuscini e fumano lunghi cibucchi di hashish aromatizzato con oppio e ambra. Per loro la gerarchia dell'essere si è contratta in un punto del reale privo di dimensioni. Per loro l'interno di ogni cosa è l'esterno, perché le catene della legge sono state spezzate. Terminano il loro digiuno con del vino. Melograno, gelso, albicocco, la melanconia erotica di cipressi e rose, aloe e benzoino bruciano nei braceri, un padiglione con mosaici e calligrammi, un salice, un corso d'acqua, una fontana, lo scandalo metafisico di odalische al bagno, di pompieri bruni che giocano a nascondino nel fogliame. Notte, il vecchio della montagna, Sani Sabà, come un lupo civilizzato in turbante si sdraia su di un parapetto che sovrasta il giardino e osserva intensamente il cielo, navigando le costellazioni di eresia nell'incurante aria fredda del deserto. È vero, in questo mito da alcuni aspiranti discepoli verrà ordinato di gettarsi dalle mura nell'oscurità del baratro, ma è vero anche che alcuni di essi impareranno a volare come stregoni. Il vecchio della montagna si insinua come un fantasma nelle tende dei re, nelle camere dei teologi, eludendo ogni guardia, ogni serratura. Si lascia dietro la sensazione di un incubo appena svanito, pugnali sui cuscini e toni per corrompere. Lo stemma del castello di Alamut si trattiene nella mente come un mandala perso dalla storia ma incastonato nei ricordi degli eletti. Chi li ha soggiornato ha diritto a portare il caftan dei poeti sul quale anche le macchie di sangue si rivelano essere eleganti arabeschi. Gli altri hanno in un sol colpo applicato all'umanità e rinunciato alla divinità. Il caos non è mai morto, lunga vita al caos. Hakim Bey, zona temporaneamente autonoma, assassino. È giunto.